scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un artista italiano davvero famosissimo in tutto il mondo. È nato a Torino nel 1957. Apprende i primi rudimenti dell'illusionismo in seminario grazie a un giovane sacerdote con l'hobby della prestidigitazione. All'età di 15 anni, usando costumi presi in prestito dal teatro del seminario, si esibisce nel suo primo spettacolo di cambio rapido di ruoli. La sua carriera professionale comincia nel 78 in Francia, al cabaret Paradis Latin. Da lì si sposta in Germania e in Inghilterra. Al suo ritorno in Italia nei primi anni 80 partecipa come ospite fisso allo show televisivo Al Paradise. I successi a teatro si susseguono in tutta Europa. Dal 94, con il gruppo italiano della Compagnia dell'Arancia, comincia a concentrarsi nella creazione e nello sviluppo di musical. Dirige vari spettacoli in Italia, tra cui tutti gli spettacoli teatrali di Aldo Giovanni e Giacomo, Raul Cremona e Angelo Branduardi. Dal 2006 è nel Guinness dei primati come il trasformista più veloce del mondo. Nel 2007 in Italia esce la sua autobiografia, Uno Arturo 100.000. Nel 2001 è nominato Cavaliere delle Arti e delle Lettere dal Ministero della Cultura francese. Nel 2013 viene inaugurata la sua statua di cera nello storico museo parigino Grévin. Torna sui palcoscenici italiani con Brachetti, che sorpresa! Lui è, ovviamente, Arturo Brachetti. Arturo, non posso che dire... Che sorpresa, Arturo Brachetti, che sorpresa. Tu sei destinato sempre a sorprendere. È una responsabilità dover sempre sorprendere. Ma tremenda, tanto è vero che io non mi sorprendo più. Anzi, mi sorprendo molto, molto raramente. Io mi sorprendo quando, per esempio, i bambini si sorprendono. Ormai vivo di vampirismo. Cioè, provoco una sorpresa quando la gente fa: oh, anch'io sono contento, come se la facessero a me. Hai un effetto ipnotico sui bimbi. Ormai sembra che i bambini e i ragazzi abbiano visto tutto, sappiano, sì, già tutto fin da piccoli. Ma guarda, ci è arrivato un camerino un tempo fa, una famiglia con un bambino di 5 anni, ma piccolo, e lui ha visto lo spettacolo e mi fa: ma adesso che torni a casa prendi il taxi oppure voli? È bellissimo, è bellissimo. Ho detto: tu, you made my day, come dicono gli americani, no? Cioè, questo è, magari da grande si ricorderà che era andato a teatro e ha visto questo mago vero, perché lui ci credeva. Ma poi è anche carino quando invece gli adulti vengono per vedere lo spettacolo, dice: ah, chissà come fa a cambiarsi, come fa, eccetera, eccetera, e vengono per scoprire i trucchi. E poi alla fine, dopo 10 minuti, ma va, adesso mi lascio portare da questo treno di fantasia, e poi non si chiedono più, ritornano bambini. Questa è la cosa forse più carina che succede nei miei spettacoli. Beh, io da adulta me lo chiedo come fai a cambiarti, perché io ogni volta che mi devo preparare per uscire ci metto 3/4 d'ora, 50 minuti, un'ora. Ma non serve a niente, il teatro è teatro e poi dopo a casa anch'io sono lento, di mattina sono una pallina da biliardo per la stanza, cercando di capire dove sono le cose. Il problema è che a casa noi non siamo organizzati. Io a teatro so cosa devo mettermi dopo, esattamente quali scarpe, quali pantaloni, quali giacche. Invece a casa, specialmente le signorine, le donne, dicono: oh, cosa mi metto stamattina? Questo? Ah, no, magari questo. Ma no, poi dopo cambia. Allora passano 20 minuti, capiti? Una chicca, un po'. No, perché sto cercando di cambiare. Sto cercando di smettere. Basta trasformarsi. Perché? È proprio questa. No, perché è una malattia la trasformazione, sì? La metamorfosi, perché ti tira fuori il peggio di te stesso. Addirittura? No? Addirittura. Sì, una cosa tipo Freud, tipo Proust. Sì, ma io non ho Proust, no, Proscolo delle mani. Bravo. Lo abbiamo rubato ad una delle sue strepitose tournée internazionali, Arturo Brachetti. Meraviglioso, la magia, il sogno, la fantasia di Arturo Brachetti, un grande artista che tutto il mondo ci invidia. Wait to see him, I've heard he's amazing. He certainly is. Please welcome Arturo Brachetti. Ci sono delle leggende che ti riguardano, ad esempio la tua casa, che pare sia un luogo magico, e il tuo ripostiglio di travestimenti che è sterminato e sconfinato. Sì, allora a casa mia è veramente magica, c'ho i muri che si spostano, i passaggi segreti come Indiana Jones, la libreria che gira, l'acqua luminosa che quando è fredda è azzurra e quando è calda diventa poi viola e rossa, ho gli specchi che parlano, una camera segreta, cioè sì, è un parco giochi. Il giro della mia casa dura circa 20 minuti. Insomma, che non è che sia sterminata, però se ti racconto le cosine dura così. Infatti da vecchietto farò quello, da pensionato farò il tè a casa di Arturo Brachetti, 15 euro ciascuno, esentasse e ciapalì. Fantastico. E poi invece il repertorio dei costumi, poverini, sono tutti in un deposito in provincia di Torino, sono 350, quindi una bella famiglia, e io ogni tanto vado là per metterli a posto, cercare delle cose, me le vedo un po' come un catalogo, come una storia della vita, come vedere delle vecchie fotografie, cioè vedo, ah, questo qua ce l'avevo nell'81, e mi vengono in testa tutti i fatti che si erano successi in quel periodo e così via, e quindi non sono morti come tutti gli oggetti che abbiamo per casa, no? Che hanno una loro poesia. Io credo che gli oggetti portino con loro la loro storia, insomma mi piace credere, ecco. Per cui, che ne so, il pettine di mia nonna è poetico perché porta la storia di mia nonna. Lo diceva anche un poeta spagnolo, che si chiama Brossa. Brava, vedi? Lo conservo. E questo rispetto, per esempio, a quegli alberghi tristissimi dove ci mandano modernissimi ogni tanto, che se tu sei in camera dici, ma sono a Düsseldorf o a Dubai o a Singapore, tutto fatto moderno, normale, con cose asettiche. Invece io preferisco gli alberghi o le case che hanno una loro vita, che i muri ti raccontino delle cose, che i mobili, i quadri, le tende, e io ci credo, ripeto, a queste emozioni. In fondo, per esempio, adesso il teatro, le chiese vuote sono come dei grandi dinosauri dove noi entriamo e sono pieni di vibrazioni, di applausi, di risate, oppure di preghiere, di tristezze che se uno ha l'orecchio giusto può ancora ascoltare. Ha detto Düsseldorf, Dubai, Singapore, tu giri per il mondo e sei considerato una bandiera italiana, che effetto ti fa questo? Ma all'estero mi fa un grande onore, perché porto in giro uno spettacolo molto di alto livello, perché porto una tradizione completamente italiana, che è quella della commedia dell'arte, insomma una propaggine della commedia dell'arte, e per gli stranieri è normale, perché dicono, ah, tu sei italiano, e certo, sei un artista, è italiano, no? Un po' meno normale considerare l'italiano come un businessman o come un politico, tanto è vero che loro pensano che i nostri politici sono dei comici. E lo sono, perché poi dopo fanno quel che fanno e i TG internazionali si divertono molto. Mi fa molto onore. Adesso io vorrei anche, come dire, impegnarmi di più e volentieri a portare avanti la bandierina italiana sui palcoscenici del mondo, però ogni tanto, come dire, lo Stato si ricorda di me, l'Italia, ogni tanto no, dipende dagli anni. Moi dans la chanson, je suis nul. Ma moi, je vous ai entendu dans les loges et vous chantez super bien. No. Mais si. No, no, no, no, no, no, no. Mais si, venez. Et l'Ara peut vous aider en plus. Ah là, franchement. Alors. Si l'Ara descend, moi je descends. Tu veux vraiment faire ça? Oh my oui. God. Orignal, Orignal, qu'est-ce que tu fous à poil? Orignal, Orignal. Cavaliere delle Arti delle Lettere di Francia, premio Molière come miglior attore teatrale, ovviamente in Francia, vincitore del Laurence Olivier Award in Inghilterra, ma tutto questo conta di più o meno di essere stato super brac in Topolino? Super Brachi è stato fantastico, ma più di tutti è la statua di cera al Musée Grévin. Molto questa statua, che adesso l'hanno piazzata proprio all'ultima del museo, cioè in una posizione strategica fantastica, perché uscendo vedi questo personaggio vestito, sembra un costume da clown, che cambia costume ogni 20 secondi, è l'unica statua semovente del museo, gira su se stessa, quindi ha un davanti uguale come lì dietro, che non è il mio caso, anche se molti lo dicono, e cambia, diventa la notte il giorno, eccetera, eccetera, in continuazione, e mi sono somiglia veramente da morire. Io quando mi metto vicino dico mamma mia, solo che la maledetta non invecchia. Infatti è stata fatta 3 anni fa ed è lì per sempre, avrà quel viso lì, mentre invece io qualche ruga in più ogni anno la metto. Però questa è la cosa che più mi diverte. No, qualche ruga in più non è vero, perché tu non hai assolutamente età. Immagino che tutti ti chiedano come. Beh, faccio una vivo da suora, scusa, mangio riso in bianco e ormai sono diventato anche vegetariano, quindi riso in bianco, pesce e tutte cose bio, pseudo, seitan, tofu, muesli, tutte queste cose tristissime, però devo dire che funzionano. Come si innova il tuo spettacolo? Questa volta hai portato con te tanti amici, anche giovani. Luca Bono, l'enfant prodige della magia, Luca Etino, che Le Figaro ha definito i loro leardi italiani, e gli illusionisti Francesco Scimemi e Kevin Michael Moore, ho studiato. Bravo. Come si innovano i tuoi spettacoli? Beh, io cerco anche di sorprendere non solo per i mezzi di effetti speciali, ma anche come stile. A me piacerebbe, che ne so, da morire fare uno spettacolo completamente horror. Solo che non me lo lasciano fare, però lo farei volentieri, proprio per dire cosa ci fa Brachetti stavolta. Ah, stavolta ci fa paura, ecco, cioè provocare delle emozioni, qualsiasi essi siano, generalmente sono sempre intorno alla meraviglia e alla sorpresa, però sorprendere come genere mi piacerebbe molto. Oppure fare per esempio da settembre voglio riprendere un piccolo spettacolo che ho fatto a Torino, che si chiama Arturo Off, che lo facciamo proprio per un teatrino piccolissimo di 100 posti, vietato ai minori di anni 14, quindi dove diciamo le parolacce e diciamo le poesie sporcaccione dell'Ottocento, del Novecento, dove faccio delle cose che la gente non si aspetta da me, invece che sorpresa, uno spettacolo familiare, e quindi alla fine è buonista, capisci? Però mi piacerebbe ogni tanto tirar fuori il diavoletto dall'armadio e portarlo in scena. Tante cose, effetti speciali, laser, proiezioni, quindi anche cose un po' tecnologiche. Ma che cosa non sei ancora riuscito a fare? Dici, questo vorrei proprio studiarmelo e immaginarmelo. Se ho una frustrazione vera è quella di non poter cantare in palcoscenico. Ma l'hai fatto un disco tu? Sì, ragazzi, cioè, tutti mi pigliano per i fondelli ancora adesso. Cioè, ho fatto un disco, questo è carino invece, che uscirà a settembre, perché è una ballata leggera, non è un musical, perché quando ho fatto un disco, un musical tanti anni fa, ed era un po' tremolante, diciamo, però con gli anni la voce è diventata un po' più sicura, e adesso con Federico Siriani abbiamo fatto una canzone, perché le nostre mamme, tutte e due, sono ormai vittime di Facebook, e quindi mia madre, che ha 78 anni, è lì che smanetta, eccetera, eccetera, che si collega, che mi commenta i post, eccetera, eccetera. Allora, pure la sua, abbiamo fatto una canzone che si chiama Mia madre sta su Facebook. Mia madre sta su Facebook e mi controlla i post, e io mi sento un poco perso come i naufraghi di Lost. Controlla quel che scrivo con caustica ironia. Pensavo di bannarla, ma è pur sempre mamma mia. Beh, perfetta. E continua così, non è divertente. È molto più divertente dopo, ma questa sì, vabbè, la so canticchiare. Ma cantare in un musical, proprio la canzone, quella pa-pa-pam, è una frustrazione che mi manca. Però sto andando a ripetizioni, quindi c'è una speranza. Quindi aspettiamo un'altra sorpresa. Speriamo che, insomma, dal bagno il canto passi anche al palcoscenico, se no come faccio come nel film di Woody Allen, installo un bagno in palcoscenico e canto lì. Ed è tutto per la voce in scena di oggi, che era Arturo Brachetti. Ci ritroviamo domani alla stessa ora.